i campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 20 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.47 tramonterà alle 16.24, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. L'annata olearia 2020 in Friuli Venezia Giulia è stata buona, nonostante massicci attacchi di mosca e cimice. Risultati positivi, però, che inducono ancora molti agricoltori a impiantare oliveti. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare al corsivo di Anna Costantini e alla sua visione dei regali natalizi. Nella lunga serie che propone c'è anche un cesto di radicchio di campo. Per la rubrica delle normative, gli scampati pericoli e le minacce incombenti della burocrazia, con nuovi balzelli sui trasporti agricoli. Uno dei vanti della frutticoltura regionale erano le pesche di Fiumicello, che paiono però in declino. Oggi Raffaele Testolin insegna come allevare un pesco nel giardino di casa. Nella rubrica dell'università parliamo ancora di api e le nuove tendenze per la loro alimentazione di soccorso, con l'obiettivo di renderle sempre più resilienti. È dedicato a roccoli e bressane, veri monumenti arborei della campagna friulana, lo spazio che dedichiamo a parchi e giardini. Prima dell'andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano. È tempo di bilanci per l'annata olivicola anche nella nostra regione. Com'è andata? Quali le prospettive per il settore? Ne parliamo oggi con Marco Stocco, tecnico dell'ERSA, che segue appunto questo settore, il settore olivicolo. L'annata è stata un'ottima annata dal punto di vista produttivo. C'è da dire che comunque ci sono stati alcuni problemi sia per quanto riguarda la mosca olearia sia per quanto riguarda la cimice asiatica. Partiamo con la mosca. La mosca è il principale patogeno insetto dell'olivo. Attacca le drupe, la mosca punge le drupe, la larva si sviluppa all'interno e crea un'ossidazione dell'olio che poi va a peggiorare la qualità dell'olio stesso. Particolarmente aggressiva è stata nel 2020 la mosca, in quanto se noi andiamo a vedere l'annata 2019, gran parte degli olivicoltori, vista la scarsa produzione, non ha raccolto. Ha svernato nelle olive non raccolte e, avendo un inoculo molto elevato, visto anche l'inverno mite, la pressione nel 2020 è stata particolarmente intensa. Cimice. La cimice asiatica ha creato dei danni nelle zone in cui il Trisholcus mitsukuri, parassita di questo insetto, non si era ancora insediato in maniera puntuale. Pertanto, nelle aree marginali e più lontane da dove c'è stata i ritrovamenti di questo predatore, le cascole nell'immediata posta allegazione sono avvenute e anche in maniera abbastanza consistente. Questo ha influito sulla resa e anche sulla qualità? Sicuramente ha influito sulla resa. Sulla qualità la cimice non interferisce in maniera così aggressiva sulla qualità, mentre la mosca ne determina un degrado dei profili organolettici dell'olio stesso. Nonostante questi problemi si continua a impiantare olivi nella nostra regione? L'olivo è una coltura che negli ultimi anni sta avendo un discreto successo. Nell'ultimo decennio circa 20-30 ettari vengono piantumati ogni anno, un po' nelle aree marginali, un po' dagli agricoltori che trovano le altre colture meno interessanti e decidono appunto di investire su questa cultura arborea. Rimane ancora un po' il problema frantoi, come mai? Avendo questo progressivo aumento delle superfici piantumate a olivo, nelle annate di carica, come può essere il 2020, ci sono delle difficoltà oggettive nel frantoiare in maniera tempestiva le olive raccolte. Pertanto, nel prossimo futuro bisognerà investire in tal senso. Rimane ancora l'olivicoltura nella nostra regione poco più che un hobby, oppure si comincia a vivere di olivicoltura? L'olivicoltura in regione rimane comunque una cultura di integrazione al reddito. Tuttavia, in un'ottica futura, visti anche i cambiamenti climatici che rendono il nostro territorio più favorevole alla coltivazione, in un prossimo futuro potrebbe essere una coltura anche da reddito principale. Attualmente ci sono poche realtà produttive in regione che vivono esclusivamente di olivicoltura. E l'ERSA continua la sua attività nel settore con il recupero, valorizzazione e studio delle varietà autoctone. Sì, in tal senso, nell'anno 2020, presso la sede di Pozzuolo, ERSA ha piantato circa una ventina di varietà recuperate sul territorio regionale per fare un campo catalogo e valutare quali sono tra esse le varietà che possono avere prospettive sul mercato futuro. I segni del Natale cambiano, come dovrebbero cambiare anche i regali che ci scambiamo. Tenendo conto dei nuovi approcci green, Enos Costantini tra le sue scelte individua anche un bel cesto di radicchio di campo. Leggendo un topolino ho scoperto l'esistenza di Babbo Natale. Un ciccione coi colori della Nerossi Vicenza, una squadra di ballon. Poi ho preso che sono in realtà i colori di una bibita americana. Dalle mie parti i doni ai Fruz li portava San Nicolò, mentre giù per il Friuli li portava Santa Luzia. Entrambi i santi arrivavano con un musut, che gradiva il fieno messo sul balcone, mentre le renne erano bestie esotiche, lichenofaghe, che neanche i cosacchi del 44 avevano. Quasi contemporaneamente ho scoperto l'albero di Natale in una casa borghese di una cittadina vicina. Tanto il biancorosso Sileno che l'abete erano privi dei santi segnacoli cristiani. E per quanto fossi un frutto, ciò mi pareva un ritorno ai culti pagani. I regali così virtuali di quel rennemunito personaggio erano impossibili per noi, in attesa di mandarini, bagigi e fichi di barile, non mancando pei più discoli il carbone e il bastone. Ma non si poteva resistere a questa Halloween del solstizio. E siccome i costumi sociali soffrono di inerzia, alligi alla prima legge di Newton, anche in un contesto che non è più quello di lascia ora doppia, si continua a parlare di cibo e di regali. Qualche flebile voce dice di comprare italiano. Nessuna voce dice di comprare friulano. Il mio pensiero è semplice. Se la filiera di un prodotto parte dal Mato Grosso, non è né italiano né tantomeno friulano. Finché abbiamo la fortuna di vivere in Friuli, ricordiamo che in questa piccola regione possiamo trovare cibo con filiere tanto corte che, se nascono su raisins di sopra, si concludono tutte al più a su raisins di sotto. Non solo la solita triade eccellente del territorio che ogni italica regione possiede, ma innovazioni non riconducibili a oscuri acronimi. Quale strenna più bella, per esempio, di un cesto di radicchio? Per i doni non commestibili c'è una rete di artigiani, spesso sotterranea, friulanamente ascosa e ritrosa, che produce però cose mirabili in quantità minime e quindi preziose. E vi sono artisti, poeti, scrittori, fotografi, magari nella borgata accanto. C'è ancora chi apprezza un quadro o un libro. Viviamo nell'epoca della informazione. E allora cominciamo a conoscere quel Friuli che non è solo storia, è attualità economica che deve preparare il futuro. E con ciò, buon presepio a tutti. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di motori agricoli, perché con la fine dell'anno, per un problema che si risolve, ce n'è già uno nuovo che spunta all'orizzonte. Partiamo dai problemi risolti, ricordando che per tutti i depositi di prodotti petroliferi ad accisa agevolata, quindi anche i serbatoi aziendali di gasolio agricolo, il decreto legge 124/2019 aveva introdotto, a partire dal 1 gennaio 2021, nuovi obblighi finalizzati a fronteggiare frodi fiscali legate appunto all'improprio utilizzo di carburante. Si chiedeva ai titolari dei depositi di dichiararli all'Agenzia delle Dogane e di tenere un registro di carico-scarico su Vidimati. In pratica, per ogni rifornimento della trattrice sarebbe stato necessario compilare il registro, facendo attenzione che la giacenza contabile corrispondesse sempre a quella fisica del deposito. Una burocrazia esagerata contro la quale sono scattate subito forti proteste da parte delle categorie. Pare però che le rimostranze abbiano avuto effetto. Sì, ci è voluto un anno intero, ma proprio allo scadere dei termini è uscita una nota delle dogane che chiarisce che i depositi di gasolio agricolo sono esonerati dalle incombenze appena richiamate, a condizione però che contengano solo carburante denaturato e abbiano una capacità massima di 10 metri cubi per i piccoli distributori a pompa, o 25 metri cubi per i cosiddetti depositi minori. L'amministrazione ha riconosciuto infatti che le condizioni di utilizzo del gasolio agricolo, in particolare la predeterminazione di quantitativi da assegnare in base al piano culturale e la successiva dichiarazione di avvenuto impiego sono più che sufficienti a soddisfare le finalità di controllo che si prefiggeva la norma. E fin qui tutto bene, però sono in arrivo anche altre novità. Novità non altrettanto positive che riguardano la circolazione su strada di alcune tipologie di mezzi agricoli. Con due circolari, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha introdotto nuovi adempimenti per i cosiddetti treni agricoli, quelli cioè formati da trattrice e rimorchio, oltre a una determinata massa complessiva. Quali sono le prescrizioni? Dal 1 gennaio, chi volesse condurre su strada treni agricoli con masse superiori a 30 tonnellate, se a 3 assi, a 40 tonnellate, se a 4 assi, 44 tonnellate, se a 5 assi o più, dovrà non solo munirsi dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, ma anche corrispondergli un indennizzo per la presunta maggiore usura. Quest'ultimo aspetto è sicuramente più preoccupante, in quanto in termini di tariffe mancano riferimenti specifici ai mezzi agricoli e pare si debba fare riferimento alle tabelle stabilite per gli autotreni e per i mezzi da trasporto eccezionale, che però prevedono indennizzi che in certi casi superano i 2.500 euro l'anno. Valori assolutamente sproporzionati, specie se si considera il numero limitato dei mezzi agricoli interessati, ma soprattutto il numero limitato di viaggi e le scarse distanze mediamente percorse. Parlando di frutticoltura in Friuli Venezia Giulia, non si poteva non parlare delle pesche. E il professor Raffaele Testolin, che insegna frutticoltura all'Università di Udine, ci segue questa rubrica, ha intitolato questo contributo Peschicoltura eroica a Fiumicello. Fiumicello è il paese delle pesche, lo sanno tutti, e lo testimonia la sagra delle pesche che ogni anno a fine luglio attira schiere di appassionati alla ricerca delle pesche di una volta. In realtà le pesche di una volta non ci sono più, le varietà sono moderne, ma la qualità è eccellente per il solo fatto che in occasione della festa i produttori offrono pesche raccolte all'ultimo momento e pronte per il consumo. E una pesca raccolta matura è un'altra cosa rispetto alle pesche raccolte immature, in vista dei lunghi tragitti che devono fare. Pesche raccolte a maturazione hanno profumi e sapori di cui avevamo perso traccia. I produttori di pesche di Fiumicello sanno il fatto loro e producono bene. Purtroppo fanno fatica a competere con i grandi produttori della Romagna, del Veronese o della Spagna, per cui alcuni di loro si sono organizzati per la vendita diretta in azienda e nei mercati di prossimità. Approfittiamo di questi canali e ogni tanto organizziamoci con la famiglia per un acquisto di frutta e verdura presso una famiglia di agricoltori. Può essere un'esperienza sociale bellissima e contribuiremo a valorizzare i prodotti del territorio. Per concludere, due parole per chi vuole mettere il pesco in giardino. Una volta messo in terra, il pesco, l'alberello, si taglia a un metro e mezzo di altezza senza ripensamenti. In primavera si allevano tre germogli disposti a 120 gradi e non si raccorciano per due anni. Si eliminano cimandoli i germogli concorrenti. Ho detto due anni e questo è il segreto per fare una bella pianta. A partire dal secondo anno, durante l'estate, si eliminano i germogli vigorosi nella parte alta di quelle che nel frattempo sono diventate le tre branche principali del vaso. Anche qua, senza pietà, il taglio si fa appena sopra le due gemme basali del germoglio per dare la possibilità allo sperone di emettere nuovi germogli meno vigorosi. Dimenticavo una cosa importante. Tutti i germogli che crescono all'interno del vaso vanno eliminati a giugno-luglio. Quello che si fa a partire dal terzo anno ve lo racconto ovviamente tra tre anni se saremo ancora assieme. Recenti momenti di crisi hanno mostrato come sia strategico nutrire le api per non perderle prima di tutto. Di questi temi e soprattutto ci sta lavorando sopra in campo il laboratorio apistico regionale. Ne parliamo con il docente di apidologia ed apicoltura dell'Università di Udine, Francesco Nazzi, che è in prima linea. Il problema della nutrizione delle api è cruciale per gli apicoltori di questi tempi. normalmente quando viene la fine dell'estate si sono costretti a offrire alle api del cibo supplementare in forma di candito, sciroppo, zuccherino. Le domande che noi ci siamo posti è stata innanzitutto se le ricette adoperate dagli apicoltori fossero del tutto prive di effetti collaterali per le api e quindi abbiamo valutato varie di queste ricette scoprendo che in effetti alcune delle sostanze aggiunte a queste diete non erano del tutto appropriate e anzi aumentavano la mortalità delle api, per cui abbiamo suggerito dei rimaneggiamenti in modo da evitare innanzitutto gli effetti collaterali. Ci siamo poi chiesti se non ci fosse qualcosa che si possa dare da mangiare alle api per aumentare la loro capacità di sopportare le infestazioni parassitarie e le infezioni del virus delle ali deformi. E abbiamo verificato come il polline sia fondamentale. Da qui il suggerimento di nutrire specialmente alla fine dell'estate le api con il polline in modo tale da prolungare la loro vita nonostante queste avversità. Qual è la dieta ottimale per un'ape in difficoltà? La dieta ottimale sembra banale, è quella che potrebbero ricavare da un ambiente circostante sano abbastanza, equilibrato, con degli spazi di vegetazione spontanea, il che purtroppo non è sempre facile di questi tempi, per cui la dieta ottimale è una dieta che comprenda senz'altro, oltre che vari tipi di fioriture, anche polline abbondante, soprattutto alla fine dell'estate, quando questo polline può servire a sopportare l'impatto che si fa gravissimo a quel momento dell'anno delle infezioni virali. La campagna friulana è costellata da architetture verdi di rara bellezza, sono roccoli e bresane, ce ne parla Franca Merluzzi. La attindi, ovvero catturare i volatili con le reti, è una pratica non più in uso né consentita, ma ha aiutato tante famiglie friulane a sopravvivere, almeno fino agli anni 50. L'uccellagione aveva soprattutto uno scopo alimentare, una fonte di proteine in tempi difficili. Coloro che la praticavano conoscevano finissime astuzie per attrarre i pennuti. Dismesse le reti, ora rimangono roccoli e bresane, strutture di carpino bianco, chamar, e altri alberi e arbusti potati a regola d'arte. La attindi implicava una vasta gamma di conoscenze, era una scienza e una passione, trasmesse di padre in figlio. Così avrebbe voluto Ustin Moulinard, Agostino Zoratti, che aveva una bressana a Fagagna. Attese invano un erede maschio, ebbe 7 figlie, ma prima di morire, per testamento, concesse l'utilizzo della bressana all'amico Paoli. Questa e altre storie sono contenute nella guida La Verde Attrazione, a cura di Mabel Enclaro e testi di Maurizio Tondolo, pubblicata dall'ERPAC, in cui vengono descritte 42 uccellande storiche in Friuli, mete di possibili escursioni. Andando sul posto, colpiscono le forme di queste architetture vegetali che impreziosiscono il paesaggio. Appartengono alla nostra storia e le cure di proprietari appassionati ne assicurano per il momento la conservazione. Leggendo la guida scopriamo che l'uccellagione aveva i suoi adepti anche nel clero, come Precheco, don Francesco Placereani, letterato e friulanista che aveva un roccolo a Montenars. Precheco lo raggiungeva alle prime luci dell'alba, spesso prima di scendere a Udine a insegnare, e lo frequentava anche al di fuori della stagione venatoria. Qualcosa di misterioso e di atavico lo attirava in quel luogo. Immergersi nella natura dà a ognuno di noi emozioni profonde, spesso indescrivibili. Auguri a tutti di buon Natale. Con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,80 e 18 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,90 e 20,20, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 17,50 e 18 euro e la soia tra 42,10 e 42,40. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 2 euro e la soia di 8,30 centesimi il quintale. Le contrattazioni dell'ortofrutticolo di Udine sono in leggera ripresa, ma con prezzi stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,20 a 1,30 euro al chilo IVA esclusa. La scalola riccia tra 2,60 e 2,80, i finocchi, i cavoli e il radicchio rosso tondo tra 0,80 a 1 euro, quello di Treviso precoce tra 0,90 e 1,40, i carciofi da 0,65 a 0,75 al pezzo, le clementine da 0,80 a 1,80, i mandarini da 1,50 a 1,60 e le arance tarocco da 0,90 a 2 euro. Nel settore della pesca l'andamento delle condizioni meteo sono favorevoli, ma a causa il Covid i prezzi sono fermi. Alla cooperativa San Vito di Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 14 a 27 euro al chilo IVA esclusa, le ombrine da 7 a 22, i latterini da 5 a 10, i cefali da 2 a 7, le sogliole da 4 a 20, i calamari, i calamaretti da 14 a 18, le canocce da 2 a 7, le passere da 7 a 11, le capesante da 10 a 13, i rombi da 25 a 30. Il latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia è stato quotato dalla commissione camerale di Pordenone Udine Franco Stalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, mercato stabile nel comparto degli avicunicoli, con i poli a terra pagati da 1,12 a 1,14 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi da 1,41 a 1,43, le femmine tra 2,80 e 2,90, le faraone tra 2,15 e 2,25, i capponi natalizi tra 3,75 e 3,95. E con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. Sul Mediterraneo la circolazione atmosferica rimane debole, con ristagno di aria umida nei bassi strati. Tra lunedì e martedì un debole fronte atlantico passerà a nord delle Alpi. Sulla regione per alcuni giorni il tempo sarà piuttosto stabile, con cielo in prevalenza nuvoloso su pianura e costa per la permanenza di nubi medio-basse, seppur alternate a qualche schiarita. In montagna invece il tempo dovrebbe rimanere più soleggiato, specie al confine con il Cadore nel Tarvisiano. Sulla costa orientale, sul Carso e sulla fascia di confine con la Slovenia saranno possibili a tratti piovigine o qualche debole pioggia. Le temperature resteranno tra i 4 e i 12 gradi. Da martedì tornerà ad espandersi l'anticiclone centrato sul Mediterraneo occidentale e sulla regione comincerà ad affluire aria più mite in quota, che accentuerà l'inversione termica con temperature decisamente positive a 2000 metri. Fino a mercoledì, dalla costa alla fascia prealpina, prospiciente la pianura, rimarrà cielo variabile o nuvoloso per nubi basse, mentre sui monti farà sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Saranno possibili locali foschie o nebbie e le temperature rimarranno stabili su pianura e costa, con lo zero termico che si porterà a 2800 metri. Giovedì probabilmente la nuvolosità interesserà anche la zona montana e sarà più probabile qualche pioggia sulla pianura, sulla costa e sulle prealpi giulie. A Natale una massa d'aria fredda potrebbe scendere dal nord Europa entrando sul Mediterraneo. Inizialmente avremo ancora cielo nuvoloso coperto con qualche debole precipitazione sparsa, poi variabile con venti di bora e forse qualche rovescio nevoso fino a bassa quota. Le temperature in montagna scenderanno decisamente. Sabato e domenica potrebbero essere due belle giornate, ma decisamente fredde con bora moderata sulla costa. Come sempre vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Un vier di Chian a salve vin e pan, ovvero un inverno freddo, da cani, salva il raccolto di frumento, il pan, e di uva, il vin. Coordinamento tecnico di Daniel Apostoli, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano, vi danno appuntamento a domenica prossima e vi fanno gli auguri di Buon Natale. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.